La requisitoria del procuratore militare di La Spezia Marco De Paolis è un durissimo atto di accusa contro gli assassini. Il magistrato ricorda che per gli imputati la strage era diventata abitudine. La partecipazione ad operazioni militari di lotta antipartigiana come quella condotta a Sant'Anna non costituiva certo una novità per gli imputati, i quali erano già tutti avvezzi da tempo per la loro specifica esperienza maturata nelle precedenti campagne di guerra nell'est europeo a operare con quella criminale feroce. Dopo la pausa, Giallo e Nero torna a raccontare la strage di Sant'Anna di Stazzema. Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. I 10 condannati per la strage a Sant'Anna di Stazzema sono gli ex soldati tedeschi della 16ª divisione Panzergranadier delle SS. Sono il tenente Karl Grobler, 82 anni, il luogotenente Georg Rauch, 84, il sottotenente Gerhard Sommer, 84, i sergenti Alfred Schönberg, 84, Ludwig Heinrich Sontag, 81, Alfred Concina, 86, Horst Richter, 84, Werner Bruss, 85, Heinrich Schendel, 83 e il caporale Ludwig Göring, 82 anni. Gerald Sommer, 84 anni, uno degli imputati, era stato intervistato anni fa dal collega della televisione tedesca Udo Gumpel. Mi scusi se la disturbiamo, signor Sommer. Siamo della televisione. Vorremmo chiederle qualcosa che si riferisce al suo passato, a quando lei faceva parte della 16ª divisione corazzata delle SS. Ne faceva parte, vero? Sì, è vero. E lei era anche il comandante del secondo battaglione, vero? Come fa lei a saperlo? Abbiamo guardato i documenti della Wehrmacht e naturalmente delle SS. Ma è vero o no? Sì, è vero. A questo punto il giornalista chiese a Sommer che cosa ricordava della strage di Sant'Anna di Stazzema e la risposta fu agghiacciante. Per me quell'epoca appartiene ormai al passato. Io non ho nulla da rimproverarmi al riguardo. Ho la coscienza assolutamente a posto e ora non ho voglia di sapere altro di quella faccenda. Adolf Beckert, all'epoca della strage di Sant'Anna di Stazzema, era caporale SS della 16ª divisione. Lo ha intervistato Elisabetta Fusconi. Eravamo sulle coste del Tirreno, nei pressi di Pietrasanta, per proteggerle dall'arrivo degli americani. Il fronte dove si combatteva era un po' più a sud. E noi eravamo a riposo, pronti come riserva dietro alla linea del fronte. Partimmo la notte tra l'11 e il 12 agosto da Pietrasanta. Camminammo in salita tutta la notte verso Sant'Anna. E alla mattina, appena spuntò il sole, arrivammo su. Giunti al paese, le campane della chiesa iniziarono a suonare. Io e un mio amico avevamo l'ordine di guardare se ci fossero uomini in chiesa. Ma trovammo solo due anziane che pregavano. Non parlammo con loro, ma ci chiedemmo che fare di queste due donne. Ma noi cercavamo gli uomini. E così, alla fine, uscimmo. Avevamo l'ordine di scovare i cosiddetti partigiani e portarli nella piazza della chiesa, perché Sant'Anna era zona di partigiani. Ma non ci fu detto esattamente cosa dovessimo fare. Dovevamo cercare uomini, ma noi due non ne trovavamo. Gli altri soldati sì. Ma nessuno era giovane. Li radunarono nella piazza della chiesa. Erano solo bambini, donne e anziani. Io e il mio amico aspettammo in piazza finché tutti non furono radunati. Arrivò un ufficiale che io non conoscevo. Und dann kam ein Offizier, den ich nicht kannte. Die war wahrscheinlich von der, 16. Division. Era probabilmente della 16ª divisione. Und die ma non lo avevo mai visto prima. Le persone che erano con lui avevano delle mitragliatrici. Questo ufficiale si avvicinò a me. Accanto a lui c'era un altro soldato delle SS con un ricetrasmettitore. Un SS-Soldat mit einem Funkgerät. Und die beiden, der Soldat mit dem Funkgerät und der Offizier. Si misero a parlare tra loro. Il soldato riferiva all'ufficiale cosa gli era stato detto via radio. Ma gran parte delle cose che si dicevano non le capì. Aber das meiste hab ich nicht verstanden. Wir standen an der Kirche. Eravamo appoggiati al muretto che circondava la chiesa. A un certo punto dovetti andare in bagno. Girai intorno alla chiesa, vicino alla torre, e lì trovai due giovani che giacevano morti. Non so chi gli avesse sparato. Poi tornai al muretto. C'erano sempre più persone che erano state trascinate in piazza e c'era anche un prete. Il prete fu invitato più volte dall'ufficiale ad avvicinarsi. Gebeten, ja, zu ihm zu kommen. L'ufficiale gli diede un ultimatum. Ein ultimatum gesetzt. Wenn bis, ich weiß jetzt nicht mehr, in 10 oder 15 Se in 10-15 minuti la gente non avesse detto dove erano gli uomini, sarebbero stati uccisi. Werden sie erschossen. Dann il prete andò dalla sua gente e parlò in italiano. Und hat gesprochen. Lo vidi parlare con le persone che si inginocchiarono davanti a lui. Es war kein Laut zu hören, kein Weinen, gar nichts. C'era un silenzio assoluto. Nessuno gridava, ma neppure piangeva. Solo preghiere per quello che ho potuto sentire. Scaduto l'ultimatum, dopo 10 minuti sentii un rumore assordante di mitragliatrice dal lato della montagna. Non vidi chi sparava perché dall'angolo della chiesa dove mi trovavo non potevo vedere i soldati, ma vidi come furono uccise le persone. Marco De Paolis, il procuratore generale militare di La Spezia, conserva un ricordo indelebile di queste inchieste, quelle sulle stragi nazifasciste del 44. Lo ammette al microfono di Alessandro Milan. Credo che con la storia ci misuriamo tutti, ecco, tutti quelli che svolgono questo lavoro. Sicuramente, occupandosi di fatti molto datati nel tempo, di un tale rilievo, si fa ingresso sicuramente nella storia con la S maiuscola, come lei ha detto. E che vuol dire avere a che fare con imputati che ormai hanno più di 80 anni e con testimoni sopravvissuti di quelle tragedie che portano davvero dentro di loro ogni giorno le cicatrici di quello che hanno visto? Certamente è un'esperienza molto, molto, molto forte. Rimane unica, rimane ecco, indelebile in tutti coloro che si occupano di queste cose, sia per noi giudici, sia per la polizia, che i carabinieri che svolgono le indagini. Ecco, è un'esperienza sicuramente molto, molto forte. È una responsabilità che noi ci portiamo perché rappresentiamo ora una istituzione che 50 anni fa non ha svolto correttamente il proprio ruolo. E quindi c'è questo debito morale nei confronti di chi ha per tanti anni sofferto in silenzio, inascoltato. D'altronde gran parte dei fascicoli che lei ha ereditato erano quelli nascosti nell'armadio della vergogna nella Procura Militare di Roma. Quello è purtroppo il punto dolente, diciamo, la situazione di legittimità che poi ha dato origine appunto a questa situazione che si è protratta per così tanto tempo. Quindi certamente quello costituisce il debito, l'inizio del debito morale che ho definito prima in quel modo. Se voi oggi andate a Sant'Anna di Stazzima, troverete una lapide nella piazza principale. In questo luogo la guerra ha strappato i bimbi dai girotondi. Quella fotografia di bambini che corrono e ridono senza preoccuparsi delle cose del mondo conserva ancora oggi il senso della storia e della memoria. Ancora oggi, dopo che il tempo è passato, scriveva Cesare Pavese. Thank you. Ora che ho visto cos'è la guerra, so che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero chiedersi: e dei caduti, che facciamo? Perché sono morti? Io non saprei cosa rispondere. Non adesso, almeno. Non mi pare che gli altri lo sappiano, perché lo sanno unicamente i morti. Soltanto per loro la guerra è finita davvero. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.